fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Siamo tornati in diretta, benvenuti o bentornati, se già ci stavate seguendo, bentornati, se invece accendete la radio per la prima volta, benvenuti. Sicuramente per la prima volta ospitiamo questi tre ragazzi che abbiamo nei nostri studi, e per essere insomma precisi e didascalici, due ragazze e un ragazzo, a meno di strane sorprese, ma a prima vista così sembra, però insomma io metto le mani avanti perché ci sa mai, insomma noi siamo aperti a tutto e a tutti, quindi metto le mani avanti. A prima vista sembra due ragazze e un ragazzo, di cui una ha sbagliato il candeggio della maglia perché c'ha tutti i buchi, insomma le è uscita male la lavatrice, poi le insegneremo anche come si fa, perché insomma bisogna anche imparare a una certa età. Esatto, bisogna imparare a una certa età a fare le lavatrici. E quello che conta è però che, contrariamente a quello che succede spesso, non sono i festeggiati della serata, ma sono invitati all'interno di una festa, e quindi volevano fare un po' una dedica e un saluto a quelli che sono i festeggiati e che sono rimasti fuori. Allora, cominciamo con le presentazioni, vai! Ciao a tutti, mi chiamo Deborah e vengo da Montisola. Buonasera a tutti, anche io vengo da Montisola e sono Aurora. E ho sbagliato? A fare la lavatrice. A fare la lavatrice, bene. Purtroppo è vecchia. Devi prenderti le tue responsabilità. Ciao a tutti, sono Michele e vengo da Montisola. Che era una delle due donne del gruppo, chiaramente. Ecco, da come si capisce dalla voce. E, domanda banale, ma è giusto farla. Montisola, quella Montisola? Sì, cioè sì, quella tutta, che era tutta arancione fino a qualche anno fa. E poi è tornata blu. Quindi io vi faccio una domanda che al pubblico non interesserà niente, ma a me interessa. Sì. È vero che da quel momento in poi si sono straimpennate le presenze? Sì, vero. Quindi vero. Confermate da indigeni? Esatto, da indigeni. Incremento turistico. Incremento, anche, quindi esatto. Confermiamo che funziona queste cose. Esatto, che funzionano queste cose. È una zona bellissima, tra l'altro, cioè veramente non è piaceria perché non ci guadagniamo nulla, è veramente una zona stupenda. Se non l'avete visitata, andate a farci un giro, una chicca, perché non è che ci sia, non è grossissima, anche questo è da dire, non è grossa, però è proprio una chicca del lago d'Iseo, e andate a farci un giro. E sapete un po', dai, raccontateci un po' la storia, di là facciamo la dedica, tutto promesso, però cioè, giuro in giurello che l'umore è bello, sulla lavatrice della nostra amica. Sapete un po' la genesi di questo floating pier? Vi siete informati? Diteci un po' allora, che è interessante. Sostanzialmente è nato. Io tra l'altro sono andato una volta e ho beccato Cristo. Ho beccato Cristo in elicottero che passava sopra e salutava. Sorvolava. Esatto, ponte, infatti è andata. Sono stato fortunatissimo. Vai, il microfono è tuo. Allora, sostanzialmente è nato tutto nel 2014, quando Cristo ha deciso di installare questa opera mondiale sul lago di Iseo. E come mai ha scelto quella zona? Ha scelto questa zona perché comunque sia la moglie che Cristo erano molto appassionati dall'idea di creare questa installazione temporanea su un lago. La moglie sei tu, immagino, da come ne parli. Sì, esatto, c'è molto trasporto. La nuova Jean-Claude. Niente, insomma, quindi Cristo ha deciso di scegliere il lago di Iseo come installazione dell'opera The Floating Piers. Ok. E i lavori, un po' tutto è iniziato nel 2014, i primi progetti, e dal 2015 il progetto è partito, diciamo, vero e proprio. Quindi si sono iniziati i primi rilievi, le prime visite, i primi progetti, le prime conferenze, e poi tutto è nato a partire da fine 2015 fino all'installazione vera e propria nel 2016. Quindi ma, due settimane durate inizialmente. È un opuscolo turistico, non è una donna questa ragazza. E visite, quante sono state più o meno? Allora, se non vorrei sbagliarmi, però più di un milione. Più di un milione, no? Mila persone. Sì. Più di un milione, sicura. Più di un milione, sicura. E floating pier, che significa ponte, più o meno ponte galleggiante, passerella galleggiante, la traduciamo in maniera, eh? Ma come mai questa installazione? Cioè, come mai non una lavatrice volante con lei che cercava di schiacciare i programmi a caso e sbagliava? Cioè, nel senso, perché questa propria installazione? Allora, sostanzialmente questo progetto era già stato pensato dall'artista, ma non ne aveva trovato un'indicazione corretta a livello geografico per questa opera, e quindi scegliendo il lago di Iseo, quando altri laghi avevano già rifiutato la proposta, Cristo ha proposto questa passerella galleggiante che collegasse la terraferma a Montisola. Però dico, c'è un motivo, c'è un qualcosa dietro, un ragionamento magari, diciamo, un po' più empirico. Era un progetto che era stato voluto sia dalla moglie che da lui, e soprattutto il colore giallo d'aglia che ricorda la passerella ricorda i capelli della moglie. No, ok. Però non ha nulla di simbolico? perché sai che solitamente gli artisti hanno un po' quell'estro, diciamo, lì di simboleggiare tutto. Sì, lui è molto particolare, cerca di porre queste opere temporaneamente in modo che l'ambiente, le persone diventino un titolo, senza però andare a impattare l'ambiente. Vedi, ecco, questa già è una buona spiegazione. Devono essere temporanee, non devono essere devono essere le installazioni temporanee, ok. Però, è stato un po' il fulcro del... Confermate che comunque ha aiutato il turismo sia nel mentre che nel dopo, che è la stessa cosa che poi è successa in termini esponenzialmente diversi con Milano dopo l'Expo, che è stata rivalutata anche da un punto di vista, grazie a Dio, culturale, soprattutto culturale, perché chiaramente Milano era città industrializzata, mentre ha guadagnato in turismo, ma turismo culturale e non solo turismo di chi va a ballare all'Hollywood e così via. Quindi questo è molto positivo. Tornando alle cose importanti, allora, i bianchi vanno lavati a te in 30 gradi, e questa è la cosa fondamentale, che secondo me tu non sei ancora arrivata a quella parte lì del libretto. No, a parte gli scherzi, allora diteci chi sono i festeggiati questa sera, allora, perché festeggiati la lista è lunga, lo so che è. Allora, Francesca, Damiano, Silvio e Lucia. Ok, sono i quattro festeggiati da Montisola. Compleanni, quattro compleanni. Giusto, ok. Volevo... siamo partiti dall'isola e siamo venuti qua a non su un ponte galleggiante, no, con un pullman. Abbiamo affittato un pullman, un banalissimo pullman. Esatto, ok. Siamo arrivati fino a qua, bene. Appunto, volevate mandare una dedica, volevate dire cosa? Volevamo augurare un buon compleanno ai nostri amici, sono in quattro e niente. Che tutti, tutti i loro desideri si possano avverare. Esatto, che questa serata sia memorabile e che Aurora impari a usare la lavatrice. Siamo qua per lanciare un appello sui bianchi e su la gradazione giusta nel lavaggio. Importante, importante. Aurora può spiegare direttamente. D'altronde la lavatrice vecchia è... Ma cosa bisogna fare? L'ho appena ordinata stamattina all'Unieuro, visto che c'è Black Friday, quindi a breve mi arriva. Bene, beh, è giusto approfittare di questi momenti appunto per migliorare la tecnologia della propria casa, è fondamentale. E Aurora, vuoi dire qualcosa? Beh, vuoi ringraziare papà Eros per la canzone che ti ha dedicato? Beh, in teoria mi chiama Aurora per Eros Ramazzotti, perché mia sorella è sempre stata appassionata. È per quello che... ringrazio mia sorella per questo nome. Wow, come sei carina. Vedi, ora che c'è della tenerezza nei confronti della sorella. Vuoi dire qualcosa ai festeggiati? Le ho curato. Scusa, avevo perso questo momento altissimo di televisione. E... sì? No, c'era il ragazzo che voleva... Niente, auguriamo ancora tanti auguri ai nostri amici, e il convento è sempre al top. Esatto, sempre al top. Per andare avanti nella nottata. Esatto. Bene, bene, allora vi facciamo andare appunto avanti a ballare, danzare, divertirvi, insomma, quello che poi sceglierete di fare. Grazie mille ragazzi anche per aver portato cultura e informazioni importanti di piccoli paesini che bisogna conoscere, bisogna scoprire, assolutamente sì. E allora ragazzi, grazie ancora, e aggiungiamo anche noi i nostri personalissimi auguri ai vostri quattro festeggiati, che chiaramente adesso sono anche diventati un po' nostri per la proprietà commutativa dell'associazione. Esatto. Anche tra festeggiati e locali, ecco, molto molto bene. Grazie ancora ragazzi e buonanotte. Grazie, buonanotte.